Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Ora d'autunno gli alberi erano tutti spogli e le strade fangose. Andai da Udine a Gorizia su un camion. Passammo davanti ad altri camion sulla strada e guardai la campagna. I cespugli di more erano spogli e i campi erano bruni. C'erano foglie morte bagnate sulla strada, lungo le file di alberi nudi, e c'erano uomini che lavoravano sulla strada, riempiendo le carreggiate di pietre che prendevano da mucchi di pietre maciullate sul ciglio della strada fra gli alberi. Si vedeva la città coperta di nebbia che tagliava in due le montagne. Attraversammo il fiume e vidi che era in piena. Aveva piovuto sulle montagne. Arrivammo in città passando davanti alle fabbriche e poi alle case e alle ville, e vidi che molte altre case erano state colpite. In una strada stretta passammo accanto a un'ambulanza della Croce Rossa britannica. Lo chauffeur aveva il berretto e il viso era magro e molto abbronzato. Non lo conoscevo. Scesi dal camion nella grande piazza davanti alla casa del sindaco. Lo chauffeur mi porse lo zaino e io lo indossai e presi un tascapane per parte e mi avviai a piedi verso la villa. Non dava la sensazione di tornare a casa. Scesi lungo il viale di ghiaia umido guardando la villa tra gli alberi. Le finestre erano tutte chiuse, ma la porta era aperta. Entrai e trovai il maggiore seduto a un tavolo e la stanza nuda con le carte geografiche e i fogli di carte dattilografate sulla parete. «Hello», disse, «come va?» Era più vecchio e più asciutto. «Bene», dissi, «come vanno le cose?» «È tutto finito», disse. «Si tolga il bottino e si sieda». Misi lo zaino e i due tascapani per terra, il berretto sullo zaino. Presi l'altra seggiola dalla parete e sedetti accanto al tavolo. «È stata un'estate dura», disse il maggiore. «Ora si sente in forze?» «Sì». «Ha ricevuto le decorazioni?» «Sì, certo, grazie tante. Faccia vedere?» Aprii la mantella perché potesse vedere i due nastrini. «E gli astucci con le medaglie?» «No, solo i documenti. Gli astucci verranno dopo. Ci vuole più tempo. Che cosa devo fare?» «Le macchine sono tutte via. Ce ne sono sei a nord, a Caporetto. Conosce Caporetto?» «Sì», dissi. Lo ricordavo come un villaggio bianco con un campanile in una valle. Era un villaggio pulito e c'era una bella fontana nella piazza. «Partono di lì. Ci sono molti malati adesso. La battaglia è finita». «Dove sono le altre?» «Ce n'è due su in montagna e quattro ferme sulla baia in Sizza. Le altre due sezioni di sanità sono sul Carso con la terza armata. Che cosa devo fare?» «Può andare a prendere le quattro macchine sulla baia in Sizza, se vuole. Gino è lassù da un pezzo. Non è mai stato lassù, vero?» «No. È stato molto duro. Abbiamo perduto tre macchine. Me l'hanno detto?» «Sì. Rinaldi gliel'ha scritto». «Dov'è Rinaldi?» «È qui, all'ospedale. Ne ha avuto per tutta l'estate e per tutto l'autunno». «Lo credo. È stato duro», disse il maggiore. «Non può credere quanto è stato duro. Ho pensato spesso che è stato fortunato venire ferito in quel momento». «So che ho avuto fortuna». «L'anno prossimo sarà peggio», disse il maggiore. «Forse attaccheranno adesso. Dicono che devono attaccare, ma non posso crederlo. È troppo tardi». «Ha visto il fiume?» «Sì, è già in piena. Non credo che attaccheranno adesso che sono incominciate le piogge. Presto ci sarà la neve». «E i suoi connazionali? Ci saranno altri americani oltre voi?» «Stanno addestrando un esercito di 10 milioni di uomini. Spero che ce ne manderanno un po', ma i francesi se li terranno tutti. Non è mai arrivato nessuno qua». «Bene, rimanga qui stanotte e domani vada con la macchina piccola a mandare indietro Gino. La farò accompagnare da qualcuno che conosce la strada. Gino le dirà ogni cosa. Stanno ancora bombardando un po', ma è tutto finito. Avrà voglia di vedere la baia in Sizza. Sono lieto di vederla. Sono lieto di essere ritornato con lei, signor maggiore». Sorrise. «È molto gentile a dirlo. Sono molto stanco di questa guerra. Se andassi via non credo che ritornerei. È tanto dura». «Sì. Anche di più». «Vada a pulirsi e poi vada a trovare il suo amico Rinaldi». Uscii e mi portai il bagaglio su per le scale. Rinaldi non era in camera, ma c'era la sua roba e sedetti sul letto e mi svolsi le fasce e mi tolsi la scarpa del piede destro. Poi mi sdraiai sul letto. Ero stanco e il piede destro mi faceva male. Pareva stupido stare sdraiato sul letto con una scarpa sola. Così mi rizzai a slacciarmi l'altra scarpa e lo lasciai cadere a terra. Poi tornai a sdraiarmi sulla coperta. La stanza era soffocante con la finestra chiusa, ma ero troppo stanco per alzarmi ad aprirla. Vidi che la mia roba era tutta in un angolo della mia stanza. Fuori stava scendendo il buio. Rimasi sul letto e pensai a Catherine e aspettai Rinaldi. Avrei cercato di non pensare a Catherine altro che la notte prima di addormentarmi. Ma ora ero stanco e non c'era niente da fare, così rimasi sdraiato a pensare a lei. Pensavo a lei quando Rinaldi entrò. Era tale quale, forse un po' più magro. «Beh, pupo», disse. Mi rizzai a sedere sul letto. Si avvicinò, sedette e mi cinse col braccio. «Bravo, vecchio pupo!» Mi diede una manata sulla schiena e io gli presi le due braccia. «Vecchio pupo!» disse. «Fammi vedere il ginocchio!» «Devo togliermi i calzoni!» dissi. «Togliti i calzoni, pupo, qui siamo tutti amici. Voglio vedere che razza di lavoro ti hanno fatto!» Mi alzai, mi tolsi i calzoni e abbassai la ginocchiera. Rinaldi sedette per terra e piegò con garbo il ginocchio avanti e indietro. Abbassò il dito lungo la cicatrice, appoggiò i due pollici sulla rotola, fece girare con garbo il ginocchio sotto le dita. «È tutta qui l'articolazione che hai?» «Sì». «È un delitto rimandarti indietro. Dovevano aspettare che l'articolazione fosse completa. Va molto meglio di com'era. Era rigido come il legno». Rinaldi lo piegò di più. Gli guardai le mani. Aveva belle mani da chirurgo. Gli guardai la sommità della testa, i capelli luccicanti e lisci nella scriminatura. Piegò troppo il ginocchio. «Ai!» dissi. «Dovresti continuare con la kinesiterapia», disse Rinaldi. «Va meglio di come andava. Lo vedo, pupo. È una cosa che so meglio di te». Si alzò e sedette sul letto. «Il ginocchio è un bel lavoro. Ne aveva abbastanza del ginocchio. Raccontami ogni cosa». «Non c'è niente da raccontare», dissi. «Ho fatto una vita tranquilla». «Ti comporti come un uomo sposato», disse. «Cosa succede?» «Niente», dissi. «E a te cosa succede?» «Questa guerra mi uccide», disse Rinaldi. «Sono molto depresso». Giunse le mani sul ginocchio. «Oh», dissi. «Cosa c'è? Non posso neanche avere impulsi umani». «No, capisco che te la sei passata bene. Raccontami». «Ho operato tutta l'estate e tutto l'autunno. Non ho fatto che operare. Faccio il lavoro di tutti. Tutti quelli difficili li lasciano a me, perché, pupo, sto diventando un bel chirurgo». «Così va meglio. Non penso mai, no. Per Dio, non penso. Opero. Così va bene». «Ma ora, pupo, è finita. Ora non opero e sto male come un accidente. È una guerra terribile, pupo. Credimi quando te lo dico. Ora fammi stare allegro. Hai portato i dischi?» «Sì». Erano incartati in una scatola di cartone nel sacco. Ero troppo stanco per tirarli fuori. «Non stai bene neanche tu, pupo. Sto male come un accidente». «Questa guerra è terribile», disse Rinaldi. «Su, ora ci ubriachiamo, così diventiamo allegri, poi andiamo a vuotare la cenere. Poi staremo bene». «Ho avuto l'itterizia», dissi. «Non posso ubriacarmi». «Oh, pupo, come sei tornato. Sei tornato serio e col fegato. Ti dico che questa guerra è un guaio. Ma perché poi la facciamo? Possiamo bere qualcosa, non voglio ubriacarmi, ma possiamo bere qualcosa». Rinaldi attraversò la stanza e prese dal lavabo due bicchieri e una bottiglia di cognac. «È cognac austriaco», disse. «Sette stelle. È tutto quello che hanno catturato a San Gabriele». «Tu ci sei stato?» «No, non sono stato in nessun posto. Sono stato tutto il tempo qui a operare». «Guarda, pupo, questo è il tuo vecchio bicchiere per lavarti i denti. L'ho sempre conservato per ricordarmi di te». «Per ricordarti di lavarti i denti?» «No, per me o il mio. Ho conservato questo per ricordarmi dei tuoi tentativi la mattina di toglierti dai denti la Villa Rossa, bestemmiando e mangiando aspirina e imprecando contro le puttane. Ogni volta che vedo quel bicchiere penso a te che cercavi di pulirti la coscienza con lo spazzolino da denti». Si avvicinò al letto. «Dammi un bacio e dimmi che non sei diventato serio». «No, non ti bacerò mai. Sei una scimmia». «Oh, lo so, sei il tipo del bravo ragazzo anglosassone, lo so. Sei il ragazzo del rimorso, lo so. Un giorno o l'altro vedrò gli anglosassoni eliminare la prostituzione con uno spazzolino da denti». «Metti un po' di cognac nel bicchiere». Toccammo i bicchieri e bevemmo. Rinaldi rise. Voglio farti ubriacare e tirare fuori il fegato e metterti un buon fegato italiano e farti ritornare un uomo. Mi avvicinai alla porta e guardai fuori. Non pioveva più, ma c'era la nebbia. Andiamo di sopra? Chiesi al cappellano. Non posso fermarmi molto. Andiamo su. Salimmo le scale ed entrammo nella mia camera. Mi distesi sul letto di Rinaldi. Il cappellano sedette sulla branda che l'attendente mi aveva preparato. Nella stanza era buio. Bene, disse. Come sta? Parlando sul serio. Sto bene. Stasera sono stanco. Anch'io sono stanco, ma senza ragione. E la guerra? Credo che finirà presto. Non so perché, ma lo sento. In che modo lo sente? Sa com'è il maggiore, così gentile? Molta gente è così adesso. Anche a me pare così, dissi. È stata un'estate terribile, disse il cappellano. Era più sicuro di sé adesso, di quando me ne ero andato. Non può credere com'è stato, ma lei c'è già stato e sa come può essere. Molta gente ha capito solo quest'estate che cos'è la guerra. Ufficiali che credevano l'avrebbero mai capito, lo capiscono adesso. Che cosa succederà? Accarezzai la coperta con la mano. Non lo so, ma non credo che possa continuare molto. Che cosa succederà? Smetteranno di combattere? Chi? Tutti e due, speriamo, dissi. Non lo crede? Non credo che smetteranno tutti e due insieme di combattere. Neanche io. Sarebbe pretendere troppo, ma quando vedo il cambiamento degli uomini non credo che potrà continuare. Chi ha vinto la battaglia quest'estate? Nessuno. Hanno vinto gli austriaci, dissi. Non hanno lasciato prendere San Gabriele. Hanno vinto. Non smetteranno di combattere. Se la pensano come noi, può darsi che smettano. Hanno provato anche loro. Nessuno ha mai smesso mentre vince. Così mi scoraggia. Io dico solo quello che penso. Allora pensa che continuerà per sempre, che non succederà mai qualcosa. Non lo so. Penso soltanto che gli austriaci non smetteranno dopo che hanno ottenuto una vittoria. È nella sconfitta che si diventa cristiani. Gli austriaci sono cristiani, eccetto i bosniaci. Non voglio dire cristiani in senso tecnico, voglio dire come nostro Signore. Non rispose. Ora siamo tutti più gentili perché siamo stati battuti. Come sarebbe stato nostro Signore se Pietro lo avesse salvato nell'orto? Sarebbe stato esattamente lo stesso. No, non credo, dissi. Lei mi scoraggia, disse. Credo e prego che qualcosa succeda. L'ho sentito molto vicino. Può darsi che qualcosa succeda, dissi. Ma succederà soltanto a noi. Se la pensano come noi, tutto andrà bene. Ma ci hanno battuti. La pensano in un altro modo. Molti soldati l'hanno sempre pensata così. Non è perché sono stati battuti. Sono stati battuti fin dal principio. Sono stati battuti quando li hanno presi dalle loro campagne e li hanno messi nell'esercito. Per questo il contadino è saggio. Perché è sconfitto fin dal principio. Mettilo al potere e vedrai com'è saggio. Non rispose. Stava pensando. Ora sono scoraggiato, dissi. Per questo non penso mai a queste cose. Non penso, e poi quando incomincio a parlare dico le cose che ho scoperto nella mia testa, senza pensare. Avevo sperato in qualcosa. Sconfitta? No, qualcosa di più. Non c'è niente di più, tranne la vittoria. Potrebbe essere peggio. Ho sperato molto nella vittoria. Anch'io. Ora non so. Non può essere che una cosa o l'altra. Non credo più alla vittoria. Neanche io, ma non credo alla sconfitta, anche se sarebbe meglio. A che cosa crede? Al sonno, dissi. Si alzò. Sono molto spiacente di essere rimasto così a lungo, ma mi piace tanto parlare con lei. È molto bello essere di nuovo insieme a parlare. Ho detto a quel modo del sonno, ma senza intenzione. Ci alzammo e ci stringemmo le mani al buio. Ora dormo al 307, dissi. Io partirò per il posto di raccolta domattina presto. La vedrò quando torna. Faremo una passeggiata per chiacchierare insieme. Lo accompagnai alla porta. Non scenda, disse. È molto bello che sia tornato, anche se non è tanto bello per lei. Mi posò una mano sulla spalla. Va benissimo per me, dissi. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao, dissi. Avevo un sonno mortale. Mi svegliai quando entrò Rinaldi, ma lui non parlò e io mi riaddormentai. Al mattino mi ero vestito e me ne ero andato prima che facesse chiaro. Rinaldi non si svegliò quando uscii. Non avevo mai visto la baia in Sizza ed era strano salire il pendio dove erano stati gli austriaci, oltre il punto sul fiume dove ero stato ferito. Vi era una strada nuova, ripida e molti automezzi. Più in là la strada si appiattiva e vidi boschi e colline ripide nella nebbia. Vi erano boschi che erano stati presi in fretta senza distruzione. Poi, più in là, dove la strada non era protetta dalle colline, era mimetizzata. La strada sboccava in un villaggio distrutto. Le linee erano più in là, in alto. C'era molta artiglieria intorno. Le case erano molto danneggiate, ma tutto era molto ben organizzato. E vi erano indicazioni stradali dovunque. Trovammo Gino e ci diede del caffè. E più tardi andai con lui e conobbi molta gente e vidi i posti di raccolta. Gino disse che le macchine britanniche lavoravano sotto la baia in Sizza, a Ravne. Aveva molta ammirazione per i britannici. C'era ancora un po' di bombardamenti, disse, ma non molti feriti. Ci sarebbero stati molti malati, ora che erano incominciate le piogge. Si diceva che gli austriaci avrebbero attaccato, ma lui non lo credeva. Si diceva che anche noi si doveva attaccare, ma non avevano portato su truppe nuove, così credeva che anche questo fosse finito. Il cibo era scarso e sarebbe stato lieto di avere un vero pasto a Gorizia. Che genere di minestra avevo mangiato? Glielo dissi, e mi disse che doveva essere magnifico. Fu impressionato specialmente dal dolce. Non glielo descrissi nei particolari. Gli dissi solo che era un dolce. E deve avere creduto che fosse qualcosa di più elaborato di un pudding di pane. Sapevo dove lo avrebbero mandato? Gli dissi di no, ma che qualcuna delle altre macchine era a Caporetto. Sperava di poter andare da quella parte. Era un bel posticino, gli piaceva la montagna alta che si alzava più in là. Era un ragazzo simpatico e pareva che tutti gli volessero bene. Disse che dove era stato davvero un inferno era a San Gabriele e all'attacco oltre l'Om, che era andato male. Disse che gli austriaci avevano molta artiglieria nei boschi lungo il crinale di Ternova, oltre e sopra di noi, e di notte bombardavano molto le strade. C'era una batteria di cannoni da marina che gli aveva dato sui nervi. Le avrei riconosciuti per via della traiettoria tesa. Si udiva il colpo, e poi il sibilo incominciava quasi istantaneamente. Di solito sparavano due cannoni insieme, uno subito dopo l'altro, e le schegge dell'esplosione erano enormi. Me ne mostrò una. Un pezzo di metallo slabrato e liscio lungo oltre 30 centimetri. Pareva metallo bianco antifrizione. «Non credo che siano molto efficaci», disse Gino. «Ma mi fanno paura. Fanno un rumore come se venissero direttamente addosso. C'è il colpo, poi immediatamente il sibilo e l'esplosione. Che cosa conta non venir feriti se si è spaventati a morte?» Disse che nelle linee avversarie c'erano dei croati e qualche magiaro. Le nostre truppe erano ancora in posizione di attacco. Non c'era telegrafo per comunicare, né luogo dove ritirarsi se ci fosse stato un attacco austriaco. Vi erano belle posizioni di difesa lungo le montagne basse che sorgevano dal pianoro, ma non era stato fatto nulla per organizzarle a difesa. A ogni modo, che cosa mi pareva della baia in Sizza? Mi ero aspettato che fosse più piatta, più come un altopiano. Non avevo pensato che fosse così frastagliata. «Altopiano», disse Gino, «ma non piano». Ritornammo nella cantina della casa dove abitava. Gli dissi che mi pareva che un crinale che si appiattisse sulla cima e avesse pochi scoscendimenti sarebbe stato più facile e più pratico da difendere che una serie di piccole montagne. Non era più difficile attaccare una montagna che una pianura, sostenni. «Dipende dalla montagna», disse. «Guardi il San Gabriele». «Sì», dissi. «Ma i guai li hanno avuti in cima dove è pianura. Hanno trovato abbastanza facile salire in cima». «Non tanto facile», disse. «Sì», dissi. «Ma quello è stato un caso speciale, perché comunque era una fortezza più che una montagna. Erano anni che gli austriaci continuavano a fortificarla. Tatticamente parlando, volevo dire che in una guerra in cui ci sia un po' di movimento, una serie di montagne non può essere tenuta come una linea, perché è troppo facile girarla. Bisogna avere la possibilità di muoversi e una montagna non è molto mobile». E anche si sprecano sempre molti colpi sparando sul pendio. Se il fianco venisse aggirato, gli uomini migliori resterebbero sulle montagne più alte. Non credevo in una guerra sulle montagne. Ci avevo pensato molto, dissi. Uno acchiappa una montagna e l'altro ne acchiappa un'altra, ma quando incomincia davvero qualcosa, devono scendere tutti e due dalle montagne. Che cosa farebbe se avesse una frontiera di montagna? Chiese. Non ci avevo ancora pensato, dissi. E ci mettemmo a ridere. Ma, dissi, in passato gli austriaci li prendevano sempre nel quadrilatero intorno a Verona. Li lasciavano scendere alla pianura e poi gliele davano. Sì, disse Gino, ma quelli erano francesi e i problemi militari si risolvono più chiaramente quando si combatte nel paese degli altri. Sì, dissi, quando si è nel proprio paese non si può agire in modo molto scientifico. I russi ci sono riusciti per prendere in trappola Napoleone. Sì, ma avevano molto territorio. Se si cercasse di ritirarsi per prendere Napoleone in trappola in Italia, ci si troverebbe a Brindisi. Una città orrenda, disse Gino. C'è mai stato? Solo di passaggio. Io sono un patriota, disse Gino, ma non mi riesce di amare Brindisi e Taranto. Ama la Bainsizza, chiesi. Il suolo è sacro, disse, ma vorrei che coltivassero più patate. Sa, quando siamo venuti qui abbiamo trovato i campi di patate piantate dagli austriaci. È proprio così scarso il cibo. Io personalmente non ho mai avuto abbastanza da mangiare, ma sono un gran mangiatore e non ho patito la fame. La mensa è normale, i reggimenti in linea ricevono cibo molto buono e quelli alle retrovie non tanto. C'è qualcosa che non va da qualche parte, dovrebbe esserci un mucchio di cibo. I pescecanni lo vendono da qualche altra parte. Sì, danno quel che possono ai battaglioni sulla linea del fronte, ma quelli indietro sono molto scarsi. Hanno mangiato tutte le patate degli austriaci e tutte le castagne dei boschi. Dovrebbero nutrirli meglio. Noi siamo dei gran mangiatori, sono certo che c'è un mucchio di cibo. È un gran guaio per i soldati avere poco cibo. Ha mai notato che cambiamento fa nel modo di pensare? Sì, dissi. Non può fare vincere una guerra, ma può farla perdere. Non parliamo di perdere. Si parla abbastanza di perderla. Quello che si è fatto quest'estate non può essere fatto invano. Non dissi niente. Ero sempre imbarazzato dalle parole sacro, religioso e sacrificio e dall'espressione invano. Le avevamo udite a volte ritti nella pioggia quasi fuori dalla portata della voce, in modo che solo le parole urlate giungevano, e le avevamo lette sui proclami che venivano spiaccicati su altri proclami da un pezzo ormai. E non avevo visto niente di sacro, le cose gloriose non avevano gloria, e i sacrifici erano come i macelli a Chicago, se con la carne non si faceva altro che seppellirla. C'erano molte parole che non si riusciva ad ascoltare e si finiva che soltanto i nomi dei luoghi avevano dignità. Anche certi numeri e certe date e coi nomi dei luoghi erano l'unica cosa che si potesse dire che avesse un significato. Parole astratte come gloria, onore, coraggio o dedizione. Erano scene accanto ai nomi concreti dei villaggi, ai numeri delle strade, ai nomi dei fiumi, ai numeri dei reggimenti e alle date. Gino era un patriota, così diceva cose che a volte ci separavano, ma era anche un bravo ragazzo e capivo come fosse un patriota. Era nato così. Partì in macchina con Peduzzi per ritornare a Gorizia. Tutto quel giorno continuò un temporale. Il vento abbatteva la pioggia e dovunque erano pozzanghere e fango. I calcinacci delle case diroccate erano grigi e bagnati. Sul finire del pomeriggio smise di piovere e dal posto di raccolta numero 2 vidi la nuda campagna bagnata d'autunno con le nuvole sulle cime delle colline e la paglia bagnata e gocciolante che mimetizzava le strade. Il sole apparve un momento prima di tramontare e splendette sui boschi spogli oltre il crinale. Vi erano molti cannoni austriaci nei boschi su quel crinale, ma soltanto alcuni sparavano. Guardai gli improvvisi sbuffi rotondi di fumo di shrapnel nel cielo sopra una fattoria diroccata vicino a dove era la linea, sbuffi morbidi con un lampo bianco-giallastro nel cielo. Si vedeva il lampo, si udiva il colpo, poi si vedeva la palla di fumo contorta e snella nel vento. Vi erano molti proiettili di ferro di shrapnel nelle macerie delle case e sulla strada accanto alla casa diroccata dove era il posto di raccolta, ma non bombardarono vicino al posto di raccolta quel pomeriggio. Caricammo due macchine e scendemmo la strada mimetizzata con teli bagnati e i resti del sole si infiltrarono negli spiragli tra le strisce di rete. Prima che uscissimo sulla strada aperta dietro la collina, il sole era calato. Scendemmo la strada aperta e mentre, dopo una svolta all'aperto, entrava in una galleria quadrata di reti mimetiche, la pioggia ricominciò. Durante la notte si levò il vento e alle 3 del mattino, con la pioggia che scendeva a strati, vi fu un bombardamento e i croati attraversarono le praterie della montagna e zone boscose fino alla linea del fronte. Combatterono al buio nella pioggia e un contrattacco di uomini impauriti della seconda linea li respinse. Vi fu un gran bombardare e molti razzi nella pioggia e fuoco di mitragliatrici e di moschetti lungo la linea. Non ritornarono e fu più tranquillo, e tra le raffiche di vento e di pioggia si udiva il rumore di un grande bombardamento lontano, a nord. I feriti stavano arrivando al posto di raccolta, alcuni portati in barella, alcuni a piedi, alcuni trasportati sulle spalle da uomini che venivano attraverso i campi. Erano bagnati fino alle ossa e tutti erano impauriti. Riempimmo 2 ambulanze di barelle via via che salivano dalla cantina del posto di raccolta, e mentre chiudevo lo sportello della seconda ambulanza e lo assicuravo, sentii la pioggia diventarmi neve sulla faccia. I fiocchi scendevano pesanti e veloci nella pioggia. Quando giunse l'alba, la tempesta infuriava ancora, ma non nevicava più. La neve si scioglieva via via che cadeva sul suolo bagnato e ora pioveva di nuovo. Vi fu un altro attacco subito dopo l'alba, ma non ebbe successo. Aspettammo tutto il giorno un attacco, ma non giunse finché il sole non fu tramontato. Il bombardamento incominciò verso sud, sotto il lungo crinale boscoso dove erano concentrati i cannoni austriaci. Aspettammo un bombardamento, ma non venne. Stava diventando buio. Dal campo dietro il villaggio sparavano i cannoni e i proiettili, allontanandosi avevano un suono rassicurante. Giunse notizia che l'attacco a sud era fallito. Non attaccarono quella notte, ma giunse notizia che avevano sfondato a nord. Durante la notte giunse la voce che dovevamo prepararci alla ritirata. Il capitano del posto di raccolta me lo disse. Lo aveva ricevuto dalla brigata. Poco dopo ritornò dal telefono e disse che era una bugia. La brigata aveva ricevuto l'ordine che la linea della Bain-Sizza venisse difesa a qualunque costo. Chiesi dello sfondamento e disse che aveva sentito alla brigata che gli austriaci avevano sfondato il 27° corpo d'armata verso Caporetto. Tutto il giorno vi era stata una grande battaglia nel nord. «Se quei bastardi li lasciano passare, siamo fritti», disse. «Sono i tedeschi che attaccano», disse un ufficiale medico. La parola «tedeschi» era qualcosa di cui avere paura. Non volevamo avere a che fare con i tedeschi. «Ci sono 15 divisioni di tedeschi», disse l'ufficiale medico, «e hanno sfondato e noi resteremo tagliati fuori. Alla brigata dicono che questa linea deve venire difesa. Dicono che non hanno sfondato seriamente, che difenderemo una linea sulle montagne da Monte Maggiore. Da chi lo hanno saputo? Dalla divisione. La voce che dovevamo ritirarci veniva dalla divisione. Noi dipendiamo dal corpo d'armata», disse. «Ma qui dipendo da lei. Naturalmente se mi dice di andare, vado. Ma mi dia ordini precisi. Gli ordini sono di restare qui. Lei prenda i feriti e li porti allo smistamento. A volte li portiamo anche dallo smistamento agli ospedali da campo», dissi. «Mi dica, non ho mai visto una ritirata. Se c'è una ritirata, come si evacuano i feriti?» «Non si evacuano. Se ne prende più che si può e gli altri si lasciano. Che cosa devo caricare sulle ambulanze?» «Il materiale sanitario». «Va bene», dissi.